Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni, regia di Alberto Sironi. Sesta puntata. La villa dei Luparello sorgeva all'entrata di Montelusa, venendo dalla parte del mare. Un edificio ottocentesco, massiccio, protetto da un muro di cinta alto, al centro del quale si apriva un cancello in ferro battuto, ora spalancato. Montalbano percorse il viale alberato che tagliava una parte del parco, arrivò al portone d'ingresso semichiuso, un grande fiocco nero su uno dei battenti. La cameriera lo guidò per un lungo corridoio, gli aprì una porta, gli fece cenno di entrare. Montalbano si trovò in una grande biblioteca. I libri a migliaia erano ben tenuti, allineati in enormi scaffali. Alle pareti solo 5 quadri e Montalbano a colpo d'occhio ne riconobbe gli autori emozionandosi. Un contadino di Guttuso degli anni 40, un paesaggio laziale di Melli, una demolizione di Mafai, Donghi, Fausto Pirandello. Si intende di pittura? Sì, un po'. Io ne capisco meno di lei, ma mi piacciono. Ce ne sono una trentina sparsi per la casa. Li ha comprati mio marito. Era un suo vizio segreto, amava dire. Purtroppo non il solo. Si sente meglio, signora? Meglio rispetto a quando? Rispetto a stamattina ho sentito dire che ha avuto un malore al funerale. No, no, caro amico, solo fatto finta di svenire. Sono brava. Il fatto è che mi è venuto un pensiero. Se un terrorista, mi sono detta, facesse saltare in aria la chiesa con dentro tutti quanti noi, certamente un buon 10% dell'ipocrisia di questo paese svanirebbe con noi. E così sono svenuta e mi sono fatta portare fuori. Ci vogliamo accomodare? Grazie. Il questore mi ha detto che è lei ad occuparsi delle indagini e ha aggiunto che è una persona per bene. Sono rimasta incredula, esistono ancora persone per bene. E così le ho fatto telefonare. Io non posso che ringraziarla. Lasci stare i complimenti. Lei è proprio sicuro che non si tratti di omicidio? Sicurissimo. E allora perché non chiude l'indagine? Ma vede, signora, sarò franco, si tratta solo di impressioni. Impressioni che io non dovrei e non potrei permettermi, dato che trattandosi di morte naturale il mio dovere sarebbe stato altro. Quindi se lei non ha niente di nuovo da dirmi, io stasera stessa comunico al magistrato. Ma io qualcosa di nuovo ce l'ho. Io non so quali sono le sue impressioni. Le dirò le mie. Mio marito era un uomo ambizioso, ma molto accorto. I suoi amori li consumava discretamente in una casetta che si era fatto costruire vicino a Capo Massaria. La signora Luparello si alzò, andò allo scrittoio, armeggiò con un cassetto, tornò a sedersi con in mano una grande busta gialla, un cerchietto di metallo con 2 chiavi, una lente d'ingrandimento. Porse le chiavi al commissario. Se ne ha voglia, ci faccia un salto. Ci troverà sicuramente qualche traccia rivelatrice dei suoi amori. Ma io ho raccolto qualche informazione, ma ho ricevuto solo risposte generiche. Commissario, io non gliene ho mai fatto una colpa a mio marito, ma praticamente 2 anni dopo la nascita di nostro figlio, noi non eravamo già più una coppia. E così ho avuto modo di osservarlo quietamente, senza che il mio sguardo venisse offuscato dal turbamento dei sensi. Lei non ha capito, mi scusi. Parlando dei suoi amori, io intendevo non specificarne il sesso. Tornando poi al discorso di prima, sono convinta che non si tratti di un omicidio, di una eliminazione fisica, ma di un crimine politico. Le spieghi meglio? Secondo me mio marito è stato costretto con la forza, oppure obbligato con il ricatto, ad andare dove poi l'hanno trovato, in quel posto infame. Loro avevano un piano, ma non hanno fatto a tempo a portarlo a termine perché il cuore di Silvio non ha retto. Loro chi? Non lo so. I suoi avversari politici, credo, oppure qualche socio d'affari. Vede, signora, la sua supposizione ha un grave difetto. Non è suffragata da prove. La donna aprì la busta gialla che aveva sempre tenuto in mano. Ne estrasse delle foto. Erano quelle che la scientifica aveva fatto al cadavere. La donna, mentre le tagliava, non mostrava turbamento. Commissario. Come l'hai avuta? Ho buoni amici. Le ha già viste? No. E ha fatto male. Le guardi bene. Le guardi. I pantaloni sono calati. Si intravedono le mutande. Si vede persino la marca. Lo vede, allora? Non dovrebbe vederla. Questo tipo di mutande... E se viene in camera di mio marito gliene mostro altre. Ha la marca nella parte interna. Vabbè, se le sarà infilate alla rovescia non se n'era accorto. No. Silvio era molto meticoloso nel vestirsi. E questo significa una sola cosa. Che cosa? Che lo hanno sorpreso nudo e lo hanno costretto a rivestirsi in fretta. E nudo non poteva essere che nella casetta di Capo Massaria. Ecco perché gli ho dato le chiavi. Volevano farne un porco da dare in pasta ai porci in qualsiasi momento. Se non moriva, per loro sarebbe stato meglio, avrebbero potuto fare quello che volevano. Ma il loro piano è riuscito lo stesso, in parte. Tutti gli uomini di mio marito sono fuori dal nuovo direttivo. Solo Rizzo si è salvato, anzi, ci ha guadagnato. E come mai? E questo sta lei a scoprirlo se ne ha voglia. Oppure può fermarsi alla forma che hanno fatto prendere all'acqua. Non la capisco. Da bambina, dove passavo le vacanze, avevo un amichetto, figlio di contadini, più piccolo di me. Un giorno, avrò avuto 10 anni, vidi che aveva messo sull'orlo di un pozzo una ciotola, una tazza e una scatola di latta quadrata, tutte piene d'acqua, e le guardava. Gli chiesi cosa stesse facendo e lui mi rispose con una domanda: qual è la forma dell'acqua? Ma l'acqua non ha forma, dissi ridendo. Piglia la forma che le viene data. Posso, zia? Giorgio, caro, come stai? Come stai tu, zia? Io abbastanza bene, caro. Commissario, le posso presentare Giorgio Zicari, mio nipote, figlio di mia sorella. Montalbano, piacere. Piacere. Ci scusi, commissario. Prego. Come ti senti? Hai potuto riposare stanotte? No, zia, non ce la faccio. Lo sai che cosa devi fare? Di là c'è il dottor Capuano, che è un nostro caro amico. Ti fai fare una bella prescrizione, prendi un sonnifero e ti metti a letto, che sei troppo sciupato. Ti devi riposare. Grazie, zia. Vai. Arrivederci, commissario. Arrivederci. Vede, io ho voluto che mio figlio studiasse e si facesse una posizione lontano da qui. Le ragioni lei le può intuire. E così mio marito ha riversato tutto il suo affetto sul nipote e ne è stato ricambiato fino all'idolatria. Pensi che Giorgio è venuto addirittura ad abitare con noi, con grande dispiacere di mia sorella e di suo marito. Rita? Adesso io, commissario, devo tornare dai miei ospiti, eh? Rita, accompagna il commissario, per favore. Arrivederci, commissario, buone signora. Cose. Signorina, mi dia la mano! Oh, mamma mia. Gli tenga i piedi, che si potrebbe fare male. Vai, Rita, faccio io. Non dire niente alla signora. Mi è già capitato altre volte. Ogni volta si dimentica di prendere le pillole. E quanto gli durano di solito? 1-2 minuti. Si riuscirà a capire che cosa dipende? Dicono che è una specie di cicatrice sul cervello. Una volta che ce l'hai... Stai tranquillo. Sei a casa tua, eh? È tutto a posto. Grazie, eh? Immagino che lei sia il commissario Montalbano. Io sono Stefano Luparello. Piacere di conoscerla. Piacere. Senta, come mai qui non è abbronzata? Ha avuto un incidente di macchina e si è tolto il collare da pochi giorni. Quando si sente un po' meglio, gli dica di fare un salto nel mio ufficio, a pregare. Arrivederla. Dalla curva San Filippo, Capo Massaria distava un centinaio di metri. Montalbano si avviò per un sentierino da giardino, fatto di blocchi di tufo incassati a terra. Al termine scese per una piccola scalinata che immetteva su una specie di pianerottolo nel quale si apriva la porta di casa. Si trovò in un vasto salone affacciato sul mare. Alla faccia della casetta. C'erano un tavolo da pranzo, un divano e due poltrone, una credenza ottocentesca piena di bicchieri, piatti, bottiglie di vino e liquori, un televisore con videoregistratore. Allineate su un basso tavolinetto, cassette di film porno e no. Nella stanza da letto, Montalbano aprì il tiretto del comodino sul quale stava il telefono. Quello era sicuramente il lato che l'ingegnere di solito occupava. Tre preservativi, un avviro, un blocco d'appunti dai fogli bianchi. Lo fece sussultare la pistola, una 7.65. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Angelica Ippolito, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti, realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.